Thank you. la faccia capitano. Non vedo più. Mi dai un bel sorso? No. Guarda, o ti faccio tutta cibo. E non avvi di gioia, dunque. Essa, sarà del cervello che è un nato votato. Sì, tanto a bere a me. Almeno se lo credo che resta. La cagliata giù le zesprola in una scuola si cuor e mi bomba nel camino. Ah, se ci deve aver tutto all'over. Ah, ragazzi, venino! Oh, sin corpo. Al proprio petto ritorni